Radio 24 Reportage. Follow the Money, quel che resta del metodo Falcone, 25 anni dopo Capaci, di Nino Amadore e Raffaella Calandra. Per cercare di ricostruire determinate vicende bisogna cercare di comprendere le dinamiche interne di queste vicende. E per far questo bisogna cercare di pensare come gli altri avrebbero potuto comportarsi in determinate situazioni. E questo significa pensare come loro, grazie all'aiuto di chi era uno di loro, e seguire i loro soldi. Il metodo Falcone era questo, le rivelazioni dei pentiti da una parte e le connessioni finanziarie dall'altra. Ma 25 anni dopo la sua morte, troppo spesso si infrange su un proliferare di leggi e apparati, su esigenze contrastanti e su competenze non sempre adeguate. Eppure, proprio ora, di quel metodo si ha più bisogno che mai, ora che la mafia fa più affari che morti, ora che investe in Italia e all'estero, ora che per prima coglie le occasioni dei cambiamenti, come della tecnologia, e inquina la nostra economia. Io ricordo di avergli visto esaminare migliaia di assegni bancari che servivano per ottenere la prova dei contatti tra alcune delle persone imputate, e ciascuno di questi assegni circolari veniva fisicamente guardato a mano e studiato in ciascuna delle girate per ricercare la connessione tra una persona e un'altra. Girata dopo girata, quegli assegni servivano al Pulla di Palermo per tracciare alleanze tra clan, interessi e ambizioni, un metodo che Francesco Lovoi ha visto svilupparsi sotto i suoi occhi. Ha cercato poi di portare anche a Bruxelles nelle discussioni di Eurojust e ora cerca di rimetterlo in campo, ora che dirige quella procura di Palermo che con corvi e veleni praticamente cacciò il suo magistrato più famoso, poi saltato in aria sull'autostrada per Capaci in quel 23 maggio del 92, da cui tutto cambiò. Eppure in Sicilia, come nella capitale finanziaria del paese, a Milano, anche davanti ad evidenti sospetti di investimenti mafiosi, non sempre si riesce a fermare i clan e a bloccarne le ricchezze, clan divenuti sempre più esperti nel pulire i loro soldi, anche grazie ad una corruzione sotto traccia. La corruzione è ormai lo strumento privilegiato per le mafie per entrare nell'economia legale, per entrare nelle istituzioni. Falcone lo intuiva, ma non era ancora patrimonio di conoscenza affermato e diffuso. L'insegnamento di Falcone è questo: seguire il denaro, seguire la corruzione, seguire il riciclaggio, seguire tutto ciò che permette alle mafie di entrare nei meccanismi e nei gangli dell'economia legale per condizionarla e inquinarla. Franco Roberti riveste quel ruolo di procuratore nazionale antimafia che Giovanni Falcone aveva immaginato quando, nel tracciare l'impalcatura necessaria per contrastare i clan, capì per primo quanto fondamentale fosse creare una struttura centrale e condividere informazioni e competenze, come ora nella lotta al terrorismo. Così per primo intuì come insieme e oltre alla violenza la corruzione fosse destinata a diventare lo strumento dei boss per ottenere appalti, nomine e favori. La facilità di trovare persone disposte a fare questo tipo di operazioni. In modo mafioso, l'andrangheta è dentro il CARA. Tante volte emissioni di fatture per operazioni inesistenti nascondono fonti di corruzione che sono il sintomo di attività più importanti. Così a suon di mazzette la mafia entra nella grande distribuzione in quattro sedi della Lidl, secondo l'inchiesta di Hilda Boccassini. Così, ricostruisce il procuratore Nicola Gratteri, si impossessa del business della gestione dei migranti a Isola Capo Rizzuto. Ma seguendo il flusso dei soldi, a volte si può arrivare a sbattere su fiduciari o fondi stranieri le cui risorse restano però opache se decidono di investire in una società non quotata. Oppure si può arrivare alla grande sfida dei bitcoin, quell'unità di conto che dietro stringhe di numeri e lettere di fatto garantisce l'anonimato e trasforma la moneta virtuale nel canale privilegiato per un riciclaggio invisibile di mafie e terrorismo. Già il gruppo d'azione finanziaria nel 2014 avvertiva che i bitcoin forniscono un nuovo e potente strumento per criminali, terroristi ed evasori, ricorda ora Pier Giorgio Samaia, capocentro della direzione investigativa antimafia della Lombardia.

tutto partendo dal lavoro di chi, come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, più di 30 anni fa imparò a seguire il flusso dei soldi, e l'intuizione di quel metodo di lavoro resta una delle loro principali eredità. Nessun corso di specializzazione, quasi tutti autodidatti. Io personalmente dalle prime indagini bancarie che ho fatto dovevo addirittura imparare che cos'era una distinta, perché non avevo fatto mai versamenti. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.